sé yo, viene lento divagar una música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Il console era ormai vecchio. Quella notte, come ogni notte, stava facendo la doccia prima di andare a dormire. Mentre si insaponava ricordava sua moglie Elisabetta. La rivedeva sorridente mentre lo prendeva in giro appoggiata al frigorifero. Il mio cammellino è l'odore dell'olio di ricino che mischiavamo alla miscela del motorino per lasciare una scia da bolide al nostro passaggio. Non ricordo perché, ma a fine anni 60 il profumo di ricino bruciato da un due tempi corrispondeva a misteriose e illegittime elaborazioni al canonico alesaggio di quel cinquantino. Davamo olio di ricino come squadristi ai nostri minarelli spompati ed eravamo ebri di velocità come artisti dadaisti. Il mio ricordo. Il traghetto per Olbia e la trasferta per Alghero. Un ragazzo che mi guardava guardare il mare con l'impazienza di scappare. Un ragazzo brutto, ma dolce, e bellissimo nello sguardo compenetrato. Uno sconosciuto che mi ha tranquillizzato con la comprensione dei suoi occhi castani e profondi. Gli ho regalato un fiore, che avevo messo fra le pagine di Marco Valdo, e non se ne è meravigliato. Come mai aveva fatto chi, invece, mi conosceva da una vita. I nostri ricordi trovano supporto per fuggire alle alterazioni del tempo su delle molecole. In alcuni casi sono molecole olfattive, sono odori, sono profumi che ci riportano velocemente in superficie la memoria profonda in cui affondano i nostri ricordi. Altre volte non abbiamo possibilità di stimoli dal mondo esterno che risveglino i nostri ricordi, quindi li appoggiamo a dei supporti sintetici nei quali noi speriamo che possano sopravvivere alla nostra esistenza terrena. Attraverso gli anni sono stati infiniti i supporti in cui abbiamo appoggiato le nostre memorie, dalla trasmissione semplicemente orale della memoria all'inizio della scrittura, all'inizio dell'iconografia, c'è stata la necessità di appoggiare i ricordi trascritti in qualche supporto, pergamena, carta, tavolette d'argilla, poi andando avanti fino ai giorni nostri, i supporti dai dischi in vinile, ai CD, alle cassette, alle microcassette, ai mini disc, alla memoria impalpabile dei file che noi travasiamo da un computer all'altro a seconda del cambiamento delle generazioni. Ricorderanno gli ascoltatori più fedeli della parabola melogmane, ma prima ancora golemica, dei cammellini della memoria. Il racconto postumo, scritto da Filippo Martinez, narra la storia di un vecchio console che una mattina, facendo la doccia, ricordando le cose più tenere e struggenti della propria vita, le famiglie, la moglie, le scarpe nuove che aveva comprato al figlio quando raggiunse l'età di 12 anni, o qualcosa del genere, vede cadere un piccolo cammello nell'acqua della doccia, un piccolissimo cammellino. Lo prende tra due dita e dice: ma tu chi sei? Io sono il cammellino della memoria. E scoprì il console che in realtà morire significava perdere gradualmente i propri ricordi. Notte dopo notte, cammellini entravano e uscivano dalle sue orecchie, ognuno portandosi via un pacchettino di memoria, ognuno portava via un ricordo. Infatti una notte vede questa processione di cammellini sul cuscino, ognuno aveva un pacchettino dove in un pacchetto c'erano le scarpe del figlio, in un pacchetto c'era il sorriso della moglie, in un pacchetto c'erano tutti i supporti inconsistenti e impalpabili della propria vita trasformati in ricordo. Quando l'ultimo cammellino uscì dall'orecchio, perse anche il ricordo dei cammellini. Quindi a quel momento, uomo senza memoria, uomo senza ricordi e uomo morto. Un cammellino chiese all'altro cosa avesse nel suo pacchetto e questi gli rispose che aveva un bel ricordo. Disse che stava portando via l'immagine di Filippo con le sue ultime scarpe nuove. Il console ebbe un brivido. Cercò nella memoria l'immagine di suo figlio Filippo con le sue ultime scarpe nuove e non la trovò. Frequentai la prima elementare nel 1969 in una scuola fortemente conservatrice. Per darvi un'idea, noi si cantava La leggenda del Piave marciando guidati dall'insegnante con fischietto. I maschi in casacca nera e fiocchetto azzurro, le bimbe camice bianco e fiocco rosa. Il sussidiario aveva le immagini delle bombe a cui dovevamo fare attenzione. Quelle tedesche avevano il manico di legno mentre la parte esplosiva era disegnata in giallo. Quelle americane e inglesi erano disegnate in verde e avevano forma di ananas. Quella del ricordo, la conservazione della memoria è stata una mia ossessione. Negli anni ho sempre riproposto questo tema e sempre con grande affezione il pubblico della radio, che è il luogo privilegiato alla memoria, perché la memoria che passa attraverso la suggestione vocale, attraverso la sonorità, che in fondo è una stimolazione efficiente dei nostri ricordi. Io ho una preponderanza dell'olfatto, per me i ricordi significa riassaporare, risentire anche soltanto cerebralmente alcuni ricordi, alcune memorie, per altri è sentire delle voci, sentire delle musiche. Oliver Sacks, in un suo famoso libro L'uomo che scambiò sua moglie per il cappello, che questo fantomatico psichiatra, neurologo, ma allo stesso tempo romanziere, racconta la storia, ve l'ho detta tante volte, della sua paziente, una signora anziana che va da lui perché sentiva in maniera ossessiva una musica nelle orecchie, delle ballate irlandesi, e dice: mi curi, evidentemente ho qualcosa di particolare, sento questa sorta di musica, mi sono guardata intorno, non c'è nessuno che stia suonando questa musica. La prende in analisi e scopre che in realtà quella era la musica della fanciullezza di questa signora. Il cervello di questa donna, come se fosse un registratore, aveva messo in qualche parte nascosta, segretata, tutta la musica che l'aveva ascoltata nella sua vita. E adesso, per una sorta di esplosione o spaesamento delle sinapsi dovuto a qualche patologia senile, era nuovamente tornato in superficie, stava riproducendo tutta la musica che inconsapevolmente aveva ascoltato. Quindi dentro di noi abbiamo comunque un grande hard disk organico che tiene in memoria tutto ciò che vediamo, tutto ciò che ascoltiamo, tutto ciò che sentiamo. Ma in attesa di scoprire la maniera per poterlo leggere, per poterlo riversare in supporti di altre persone, poter trasferire i nostri ricordi, voi a cosa affidate i vostri ricordi? Ai block notice, alle agende, ai diari, a delle registrazioni della vostra vita, dei compleanni, dei battesimi, dei matrimoni? Ma come fate? Volta per volta riversate il vecchio filmino in Super 8, poi diventa una cassetta VHS e poi diventa un CD-ROM e poi viene trasferito nel vostro ultimo computer, e quando adesso arriverà, che ne so, Windows 7, dovete nuovamente resettare tutto, ricambiare tutto, che fate? Ogni travaso lascia qualcosa nel vecchio, ogni cambio di computer fa perdere un pezzetto di memoria. E dove andrà a finire questa memoria? 800240024. La mia memoria io la conserverò con mio figlio. Quando avrò un figlio sarà lui la mia memoria storica e il mio passaggio all'eterno, diciamo. La memoria è quella che abbiamo dentro, quella che ci siamo fatti grazie a quello che ci hanno tramandato i nostri familiari, le persone a noi care e quelle che ci siamo fatti informandoci, ma informandoci veramente. La memoria di oggi verrà conservata esattamente come è stato fino ad oggi, cioè con lo scritto, e che lo scritto sia in grado di conservare la memoria di quei fatti che vanno a riguardare l'essenza dell'uomo e non quelli che vanno a suscitare un vago e superficiale senso di curiosità come oggi è per Vallettopoli. Si sente che erano datati questi messaggi. Parlano di Vallettopoli, quando oggi parleremo della Brendona, se vogliamo legare il nostro ricordo a qualcosa di salace. Beh, io questa mattina avevo convocato qui in radio un mio amico che avrebbe avuto il compito di aiutarmi a conservare la mia memoria. Di là, oltre lo studio, nella mia piccola scrivania, nel mio loculo, mi ero portato una valigetta con alcuni modesti supporti, il mio hard disk portatile da 350 giga, alcune chiavette USB datate nei vari anni, qualche CD, perché volevo che Giampiero Lotito, che è in studio, buongiorno, ciao Giampiero, buongiorno, mi aiutasse a dare un'ordinata a questa roba. Di cosa ne faccio tutta questa roba? Sto impazzendo. Quando devo ricercare qualcosa, per me è ormai diventato impossibile. La mia libreria è praticamente inutilizzabile, è notorio per chi mi segue su Facebook, io questa estate mi sono liberato di centinaia e centinaia di libri, non so più che farne. Erano libri non classificati, non indicizzati, non taggati. Quello che era dentro quei libri io non sapevo cosa fosse, quindi occupavano impropriamente il mio spazio vitale. Me ne sono liberati. L'ho regalati, ho fatto una grande asta benefica su Facebook, sono venuti degli amici, se li sono portati via. I libri non mi servono più, non mi servono più perché non ho possibilità di trovare velocemente quello che è all'interno dei libri, diciamo sono supporti emotivi della mia memoria. Le memorie informatiche, in cui negli ultimi 10-15 anni ho appoggiato tutto quello che ho fatto, scritto, pensato, visto e da ricordare, ormai sono affastellate, raffazzonate, non so più che farne. Giampiero Lotito, che è l'autore di Migranti Digitali, lo ricordo, ne abbiamo parlato, origine e futuro della società dell'informazione dal 3000 avanti Cristo al 2025 dopo Cristo, edizione Bruno Mondadori, ha insegnato editoria multimediale presso un master dell'Università degli Studi di Milano, è stato tra i primi nell'utilizzo delle tecnologie digitali nel mondo editoriale italiano. Quindi Giampiero, cominciamo a fare un punto oggi. Come si conserva la nostra memoria? E oggi si conserva, o c'è almeno l'idea che le tecnologie digitali ci aiutino a conservare di più e meglio. Per adesso ci aiutano a conservare di più, sicuramente, perché noi se prima avevamo 10 foto di un evento adesso che ci riguardava, 10 o 15, adesso ne abbiamo 150 o 200. Se prima conservavamo ogni tanto qualcosa di scritto, adesso conserviamo ogni scritto che produciamo, anche i semplici appunti su quello che c'è da far domani ce lo ritroviamo nel computer. I vari draft di un documento a volte esatto. 5 versioni, 1, 2, 3, 4, 5. Esatto, e quindi la nostra memoria digitale è molto più ricca, non per questo è migliore, non per questo è più ordinata, ed è uno dei problemi con cui ci troveremo tutti a fare i conti col passare del tempo, quello di avere una memoria affastellata, piena da riordinare, da pulire, perché poi tantissime delle cose che noi conserviamo e produciamo sono in effetti inutili. Tu mi hai fatto un esempio questa mattina, mi hai preso in mano il tuo iPhone, mi hai detto qua ci sono 2 anni di vita mia. Sì. Sì, perché ho 2800 foto che raccontano a me stesso e alle persone care a me la vita di questi ultimi 2 anni, dal lavoro al mio nipotino di 5 anni, al figlio di mia sorella, piuttosto che i miei viaggi di piacere, eccetera, eccetera. Quindi 2800 foto che io poi, per paura di perdere, continuo a salvare man mano che aumentano in computer diversi, e alla fine ho tantissime foto sparse, e di queste 2800 non ne ho stampata ancora una. Non ho una testimonianza fisica di quello che è successo in questi 2 anni. I miei fedeli su Facebook sanno che un giorno trovai una foto di mio nonno che aveva più o meno l'età di quando io facevo il militare, l'ho collazionata con la mia, siamo identici, e feci questo gioco sulle riapparire dei geni, sulle trappole della morte. Beh, perlomeno avevo una foto di cartoncino di mio nonno, una foto che avrà almeno 80 anni. Ecco, le tue foto, chi mai potrà vederle dopo di te? Il problema è questo, che per renderle visibili, per fare in modo che possano essere sicuramente trasmesse, dovremo probabilmente stamparle, cioè portarle sul supporto più vecchio. Questo a oggi è uno dei problemi più grossi della memoria digitale, cioè forse noi come civiltà non siamo ancora completamente pronti a trasferire la nostra memoria sul supporto digitale, ma c'è anche un altro fatto che aleggia sempre dietro questo problema: noi non sappiamo qual è la reale durata nel tempo che avranno queste memorie, quanto i dati che noi oggi produciamo saranno presenti fra 10, 50 o 100 anni. Ecco, nel tuo libro c'è un esempio paradossale rispetto appunto a questa necessità di trovare il supporto eterno. Lo puoi raccontare? Sì, qualche anno fa l'Agenzia Nazionale Britannica per l'Energia Nucleare aveva il problema di stoccare delle scorie nucleari. Le scorie nucleari sappiamo che possono durare 800, 1000, 5000 anni, quindi ci sarà probabilmente un giorno il problema di mettere il naso in queste scorie, magari per un incidente, e quindi era necessario lasciare delle istruzioni che fossero sicuramente leggibili fra centinaia o migliaia di anni. Dopo aver ragionato su come produrre questa memoria per il futuro, hanno scelto la cosa che forse è più improbabile nell'immaginario collettivo, il papiro. L'hanno scritto su papiro? L'hanno scritto su papiro per una ragione, perché è l'unica cosa che noi sappiamo, al di là delle tavolette cotte d'argilla che durano ancora di più, è l'unico supporto su cui si può scrivere, che noi conosciamo, che sicuramente può essere letto a distanza di 3.000 anni. Allora, ciò che più si avvicina all'eternità nella nostra cognizione umana del tempo, a cui possiamo lasciare la nostra memoria, è il papiro. Se io volessi lasciare un mio scritto ai posteri, non devo metterlo in un DVD, in un CD-ROM, in una chiavetta USB, una memoria digitale, ma nemmeno una lastra di cromo vanadio, ma devo metterla su papiro. Sentiamo Giuseppe. Giuseppe? Sì, pronto? Sì, l'ascolto. Sì, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Il mio intervento è forse un po' particolare. Io invidio coloro che riescono ad affidare i ricordi a dei supporti fisici, fotografie, filmati, scritti. Per me questo è difficile, i ricordi sono intimi e poi la mente li reinterpreta in vari modi. Sì, ma noi diventiamo pappa per i vermi a un certo punto. Come facciamo a lasciare che i nostri ricordi sopravvivano a questo nostro disfacimento? La sua osservazione naturalmente è assennata, è molto interessante, però non è fatale. Ascolti, per ciò che riguarda i ricordi personali, non vedo alcun altro metodo. I miei ricordi vengono poi rielaborati e qualunque supporto darebbe una descrizione falsata. Beh, uno potrebbe sussurrarli nell'orecchio di qualcuno più giovane di noi, sperando che faccia la stessa cosa, ma saranno sempre ricordi contaminati, comunque, questo è normale. Il problema, ci poniamo questa mattina, è quale può essere il supporto che ha maggior titolo di sopravvivenza, a cui vogliamo lasciare qualcosa che secondo noi è degno di essere trasmesso ai posteri. E Lotito, che è uno dei più grossi esperti di stoccaggio informatico, ci dice che al momento, secondo l'esperienza umana, è il papiro. Melog 2.0. Lei non è qui e nemmeno io. Sorprendente. E dove siamo? Alla Recall. Lei è legato ad una sedia operatoria ed io la sto esaminando dalla console della psicosonda. Ah, ho capito, sto sognando. Fa parte della deliziosa vacanza che la sua compagnia mi ha venduto, non è vero? Non esattamente. Lei percepisce una libera associazione mnemonica basata sui nostri nastri di memoria. La realtà se la sta inventando da solo. Se è una mia illusione, chi l'ha invitata a lei? Io ci sono stato innestato come misura d'emergenza. La Total Recall è un film ambientato nel 2084, il film era del 90, ma è tratto da un racconto breve di Philip Dick che si intitolava Ricordiamo per voi. Parla di un futuro lontano, 2084 appunto, in cui una società prometteva viaggi di turismo virtuale, si poteva viaggiare soltanto con la mente, ma poi si scoprirà che in realtà c'è una sorta di manipolazione dei ricordi. Il Total Recall è il dubbio su quanto sia possibile poi manipolare la mente umana quando si trova il segreto del riversamento dei propri ricordi. I ricordi possono essere riversati in un qualsiasi supporto, si può entrare nei ricordi, si possono immettere ricordi. Questo è un tema caro a tutta la narrativa cyberpunk. Sentiamo Rinaldo. Rinaldo, buongiorno. Buongiorno. Io penso, posso parlare? Se vuole, sì. Penso di essere uno dei più fedeli e anche anziani ascoltatori del suo programma. Ho 78 anni e sono ipovedente, per cui cosa le voglio dire? No, ce ne stanno anche di più vecchi, stia tranquillo, non è. le voglio dire questo, che la mia memoria l'ho fin da bambino messa su carta tenendo dei diari che non ho più potuto fare da 5-6 anni a questa parte perché appunto sono diventato ipovedente, quindi non potendoli più leggere, adesso mi è venuta la grande tentazione di buttare via tutto. Scusi, voglio... Mi scusi, però non mi segui come fa con gli altri. No, non la seguo, ma perché non li può più scrivere e leggere? Lei si faccia insegnare, ci sono dei sistemi di videoscrittura che permettono anche agli ipovedenti comunque... Sono andato proprio ieri sera da un medico che cura gli ipovedenti, il quale mi ha consigliato di prendere un apparecchio speciale che riesce a leggere, ma però riesce a leggere lettera per lettera, per cui io per leggere, diciamo, Nicoletti ci metterei un quarto d'ora. Guardi, un'amica scrittrice ipovedente che scrive bellissimi romanzi, tranquillamente ha un normalissimo rapporto con la scrittura e la lettura, si impegna. Quello che volevo dirle io è questo, che la mia tentazione è questa, siccome mia moglie mi ha detto che secondo lei, siccome io sono una persona che è sempre stata, diciamo, non ottimista ma pessimista, lei dice io i tuoi diari non li guarderei mai, anche tu fossi un bel giorno morto, perché ci saranno scritte più cose negative di quelle positive. Beh, certo che una moglie così è un bel aiuto a essere allegri comunque. No, mia moglie è molto brava, molto brava. Però quello che voglio dire io, che anche io ho delle bellissime raccolte di fotografie che ne ho fatte a migliaia, cioè dei bellissimi filmini Super 8, eccetera. Però tutte queste, io non ho il computer perché non lo posso vedere, non lo posso usare e non so neanche cos'è Facebook, eccetera. Però voglio dire, io ho la tentazione di buttare via tutto quello che ho scritto in 60 anni di perché vuole buttarlo via? Metta caso che venga una persona, potrebbe essere anche lo Tito domani che lo fa di mestiere, che dica, guardi, il suo archivio secondo me è un valore per l'umanità, se vuole io lo rendo con gli strumenti qua in mano fruibile a tante altre persone. Facciamo l'anno scorso una trasmissione con dei ragazzi che andavano in giro a registrare i racconti di vita di anziani, non avevo mai più avuto occasione di raccontarli, e oggi quei file sono un archivio meraviglioso in rete. Non abbandoni la fiducia nella possibilità che ha l'umanità comunque di alimentare questa smania di mantenere vivi i ricordi anche delle generazioni passate. Grazie. È Giampiero Lotito, rispetto a quello che ci siamo detti. È un tema abbastanza vasto questo della memoria, di tutti i risvolti che può avere. Il problema che adesso l'ascoltatore si sottoponeva era quello del rapporto con la memoria fisica, che è un'altra cosa. Io l'altra sera, entrando in casa dei miei genitori che sono anziani, avevo, guardandomi in giro, l'idea della memoria e della storia della loro vita attraverso le foto che sono nelle cornici messe a posto, attraverso gli oggetti, attraverso tutta una serie di cose che mi ha riportato indietro. Non ti viene la tentazione di creare un archivio? Ho sentito l'ascoltatore prima e sento un senso struggente di nostalgia per quei ricordi. Mi piacerebbe mettere le mani in quel diario, vedere quelle foto, mi piacerebbe archiviarle, renderle possibili e godibili a chiunque. Beh, sai, la memoria delle generazioni precedenti, pensa al lavoro che ha fatto la RAI negli anni 50 e 60, semplicemente andando nelle campagne a far raccontare agli anziani quella che era la loro vita precedente. La memoria delle generazioni precedenti è sempre una cosa importante. Peccato che si è fermato a quegli anni quel lavoro. E infatti la cosa che sarà importante vedere è queste generazioni che nascono digitali come affronteranno e che memoria lasceranno della loro vita. La mia idea è che probabilmente loro avranno già capacità di taggare i propri ricordi, ammesso che lo vogliano fare. Noi abbiamo i ricordi confusi, che siamo analogici nel nostro sistema di ricordare e stoccare la nostra memoria. In realtà abbiamo una manualità e sappiamo come andrebbe inserito in un database il nostro ricordo, ma già nasceranno col database nel loro DNA. Però la memoria è fatta di tracce, e quello che è il problema del digitale è non lasciare segno, non lasciare tracce, e lo dico da persona che vive nel mondo digitale da 20 anni, ed è uno dei problemi più seri, cioè come si fa a tracciare e a lasciare un segno della memoria digitale che noi stiamo creando. 800 24 00 24, noi stiamo parlando di mondi probabilmente non sempre percepibili o comprensibili a molti che ascoltano. Molti diranno, come mi stanno già scrivendo, per noi la memoria è semplicemente un foglietto, una foto, un appunto, un oggetto, un ricordo, un profumo. Ma tentate almeno di fare lo sforzo di raccontarci come in realtà immaginereste la possibilità di trasmettere anche queste sensazioni a chi verrà dopo di voi. Paola. Buongiorno, mi sente? Certo, bene. Allora, io sono 44 anni che praticamente ogni giorno dedico 5 minuti, 10, un quarto d'ora a scrivere tutto ciò che è accaduto, ma non soltanto a me, ai miei figli, ai miei nipoti, all'Italia, eccetera. Insomma, lo faccio ogni giorno e ho accumulato 44 anni di ricordi, e i miei figli vengono continuamente a controllare, vengono a chiedermi: mamma, ma che cosa è successo nel 70, nell'80, nel tal mese, ma ti ricordi? Andiamo a vedere. Ma lei cosa c'ha? 44 agende, un'agenda ogni anno? Esatto, ho comprato un mobile per conservarle. E lei riesce a districarsi attraverso? Sì, perché saranno giorno per giorno. Certo, giorno per giorno. Poi ci sono dei giorni in cui l'annotazione è molto breve, perché non è successo niente, o non ho incontrato persone, o non ho telefonato o ricevuto telefonate. Ma anche quando insegnavo, ho insegnato per quasi 40 anni, io prendevo nota anche così di quello che succedeva. Secondo lei, scusi, poi passiamo altri ascoltatori, questo suo archivio ha un valore nella storia della sua famiglia? Un domani potrebbero andarci a mettere il naso i suoi figli, i suoi nipoti? Certo, ce lo mettono già, come le dicevo. Quindi non c'è nulla di personale, è molto distaccato rispetto al suo ricordo personale, intimo? No, ci sono anche delle mie considerazioni, chiaramente, delle mie impressioni, dei miei sentimenti, delle emozioni che ho provato in certe situazioni. Ho capito. Sì. Gian Piero Lotito. Le ultime due testimonianze sono divertenti, anche se raffrontate a quelli che sono i blogger oggi, i diari in rete, perché alla fine questi due ascoltatori sono due blogger analogici, due persone che hanno mantenuto un diario nel tempo, e la differenza con il blogger che è in rete è quella che il blogger oggi condivide questi pensieri, queste sensazioni, anche molto private, cioè la memoria privata è diventata memoria pubblica, mentre nel caso di questi ascoltatori che scrivevano e scrivono le loro cose, è un patrimonio familiare. Augusto, buongiorno. Ah, buongiorno a lei. Interessante questo argomento. Lei come io fa? Ho telefonato, io non sono giovane, ho 69 anni, però attualmente ho ancora una grande memoria. Ma i miei ricordi e la mia partecipazione a questa vostra trasmissione è dovuta al fatto che io sono rimasto senza padre all'età di 14 anni, e le dirò che a parte i dipendenti, collaboratori aziendali, io avrò impiegato 6-7 anni dei miei primi anni di vita anche lavorativa alla ricerca di appunti, tracciare altre cose. Ma io mi reputo un topo. Quindi era riuscito a ricostruire questa figura paterna attraverso la sua ricerca di oggetti, di appunti? Ecco, diciamo, gli appunti, le tracce, i movimenti, perché le scelte di certe operazioni, di certi investimenti. Questa cosa io non lo vedo assolutamente in mio figlio. No, dei documenti, per esempio, ho un documento, 8 settembre 43, lei sa quale data importante sì. Era per l'Italia, che è importantissima, a me è servito di vincere una causa enorme, perché sapevo che c'era, perché la mia memoria visiva me lo diceva. Ci fermiamo un attimo, che diamo la linea alle informazioni del traffico. L'argomento dell'ultima parte di questa trasmissione sarà i ricordi che meritano una pubblica diffusione, ricordi che invece, per quanto belli, teneri e struggenti, non è importante che escano da un ambito di conservazione familiare. 800240024. Stavamo parlando di memoria digitale, ho chiamato un esperto informatico, ma Gian Piero Lotito mi fa notare che parlano e telefonano e si pongono il problema non nativi digitali, ma soltanto anziani. Gian Piero. È il segno di come viene vissuto il problema. La tecnologia ti dà a volte un senso di onnipotenza, perché un ragazzino, un giovane che apre un blog su internet sente di poter comunicare direttamente al mondo, e sente comunque probabilmente anche l'onnipotenza che ti dà questo mezzo, che ti consente non solo di comunicare ma anche di conservare quello che scrivi. Mentre chi ha sempre avuto una memoria privata e magari per via dell'età non ha più molto tempo davanti per occuparsi di questa memoria e della fine che farà, sente il problema in modo molto più forte. Comincia ad avere l'angoscia della scomparsa. Dice, io me ne andrò, è fisiologico, è normale, ma i miei ricordi possono lasciare di me una traccia. Lasciare una traccia di sé è una grande consolazione. Stefano. Buongiorno. Mi viene da sorridere, perché stavo pensando al discorso dei ricordi legato a questo. E quindi pensavo all'Lotito, che aveva fatto 2800 fotografie e che aveva messo un lista in by sperando che poi arrivasse il momento di stamparle. Ma questo penso che sia un discorso da affrontare in maniera diversa, nel senso che una quantità, un materiale così esagerato per farti riaffiorare dei ricordi, per quello che riguarda discorsi personali, penso sia inutile, nel senso che il ricordo è una cosa biochimica, quindi tu devi esaltare attraverso una foto, attraverso uno scritto, un qualche cosa che ti riporti al periodo, al tempo in cui questo ricordo... Ma secondo l'inizio ho detto i nostri ricordi sono delle molecole. Esatto, esatto. Quindi dovremmo lavorare più sulle molecole, nel senso se io guardo una foto di mio padre, non so, e quindi immagino quel momento, devo cercare degli odori, dei sapori, un tatto, un qualche cosa praticamente che mi leghi alla parte emozionale. Sì, ma non sempre... si fanno annusare i nostri ricordi e più passa il tempo e meno sono annusati. Certo, certo, però siccome abbiamo tutto noi una traccia nel nostro cervello, biochimica ce l'abbiamo, al contrario di quello che succede oggi, come diceva giustamente Lotito, non lasciano sì, ma cambia la traccia olfattiva che difficilmente ce li riporta in memoria. Gianpiero Lotito. Sì, sa qual è anche il problema? Quante volte nella vita abbiamo rimpianto di non avere una macchina fotografica con noi? Io tante volte, se ripenso a momenti che non ho potuto fermare, a momenti che oggi mi piacerebbe avere fra le mani, penso a delle cose che ho perso, dei momenti di memoria che ho perso per strada. Pensa al paradosso, ci sono persone anche note che maledicono che ci sia stata una macchina fotografica in certi momenti della loro vita. È quello, è che quando si ha tanto a disposizione, poi alla fine si riduce a molto poco, perché, ripeto, fare praticamente un album di 5.000 fotografie, ma tu non hai neanche il tempo di esaminarle una che ti rievochi, che ti riporti, che ti faccia riannusare. Guardi Stefano, altrettanto vale per gli scatoloni di foto. Io mi ricordo il primo figlio ha due scatoloni di foto, il secondo avrà se non un albumino, e questi scatoloni sono sigillati sotto le scarpe vecchie, sotto i ricordi di famiglia, non li andremo mai a tirare fuori. Gianni, buongiorno. Pronto? Sì. Sono Gianni. Sì, la sento. Ok, sono un secondo. Sento un gran casino però. Ho sentito parlare di... Pronto? Ma in mezzo alla bufera oppure al viva voce? No, ho chiuso il viva voce, adesso chiudo anche... Sente meglio? Sì, la macchina del vento chiuda, perché sennò... Ecco, adesso ho chiuso, ok. Allora, volevo sentito parlare di tante memorie fisiche, tecnologiche, computer, eccetera. Io che ho 69 anni... una decina di anni fa ho cercato di... e sono un pessimo conservatore di oggetti, fotografie, eccetera. Non ne ho proprio. Allora ho pensato di cercare di riempire il mio bauletto dei ricordi, richiamando i ricordi. E la cosa stupefacente è stata che, richiamando questi ricordi, ho ricordato emozioni, sentimenti, sensazioni, e credo che questo il computer non riesca a memorizzarli, solo il cervello riesca. Sì, ma è chiaro, le sensazioni non si memorizzano. Noi dobbiamo mettere a punto il grande suscitatore di emozioni, che è un qualcosa che ci dà quegli stimoli visionari, olfattivi, auditivi, riflessivi, che fanno sì che poi si scateni l'emozione del ricordo. Angelo. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Raccoglie allora... foto di famiglia all'inizio del secolo, migliaia di foto. Sì, casa mia, diciamo nella mia famiglia, la macchina fotografica è entrata prestissimo, quindi già i miei nonni scattavano i loro tutta la parentela, diciamo, ha scattato fotografie, e sullo sfondo delle persone corre la vita della comunità e del paese dove hanno vissuto. Hanno passato a me questa passione, e io man mano che vado a casa di chiunque, degli eredi, di chi è ancora in vita, porto sempre lo scanner e raccolgo, e continuo a incrementare questa raccolta. Ecco, ma come l'ha classificata? Mi interessa, visto che c'è lo Tito che è il suo mestiere. Come ha classificato queste foto? Ha dato un tag a ogni foto, un database in cui sono inserite per genere, per anno, per parente? Per... A questo momento è per la casa da cui le ho prese, quindi c'è la foto, c'è l'album della zia Maria, l'album di zio Michele, e io soltanto io so decodificarlo. Questo però è un limite. Gianpiero Lotito, cosa dovrebbe fare per dare possibilità di sopravvivenza più concreta al suo archivio, questo ascoltatore? Beh, dovrebbe sicuramente cercare di dare un'organizzazione che sia leggibile da un terzo senza una spiegazione, che è il problema degli archivi. Posso fare un breve esempio, sì, di che cosa vuol dire. Una volta mi capitò di andare nell'archivio di un quotidiano il cui archivio fotografico era stato creato negli anni 50 da una persona alla quale era stata affidata completamente l'organizzazione di questo archivio. Come accadeva in quegli anni. La memoria storica era la memoria fisica di una persona. Questa persona organizza l'archivio, dopo 30 anni va in pensione, arrivano dei giovani nell'archivio che dovevano cercare le foto. Nei primi anni vengono aiutati da questa persona, poi questa persona viene a mancare, scatta il panico, chiamano un esperto, in questo caso il sottoscritto, a dargli una mano e cominciamo a mettere il naso nell'archivio. Se volevi cercare una foto di Luciano Lama con la pipa in quell'archivio, dovevi andare sotto criminalità. Sotto criminalità trovavi vizi, sotto vizi trovavi fumo e sotto fumo trovavi la foto di Luciano Lama, perché probabilmente le prime foto di fumo che aveva in archivio erano relative magari a qualcuno che stava fumando marijuana o altro e le aveva messe sotto la criminalità. Se volevi una foto di Marilyn Monroe, le foto magari a bordo piscina, dovevi andare sotto criminalità, sotto vizi, sotto sesso, e trovavi Marilyn Monroe, perché magari la prima foto che aveva trovato era una foto di un reato sessuale. Quindi l'organizzazione di un database è anche molto segnata dalla percezione del tempo. Se viene fatta sulla base di quello che entra e non sulla base di un'organizzazione preventiva, sì. Allora, quello che succede poi è che l'archivio non è interpretabile da un terzo e il problema è quello che si perde, l'informazione che c'è dentro, esattamente come l'informazione sparsa all'interno di un hard disk nei nostri computer. Diciamo, Giampiero, visto che l'argomento è quello che appassiona gli ascoltatori, io direi la prossima volta che ci sentiamo, che tu passi per i nostri studi, daremo dei criteri concreti di organizzazione degli archivi, visto che mi sembra quello che tutti vogliono sapere, come riuscire a salvare comunque quello che hanno in casa, perché non sia l'organizzazione come il vecchio tipografo del giornale che una volta sparito, i suoi vizi e le sue virtù erano il metro dell'organizzazione delle foto di quel giornale. Cercheremo di darvi, se possibile, qualche piccolo criterio di organizzazione della vostra memoria. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0.